Tempo di Sport con Carlo Genta. Concentriamoci su questo salto perché ci si gioca tantissimo, può valere il podio, forse Antonietta Di Martino sul podio ci finirà comunque perché attualmente è in terza posizione, ma dobbiamo sperare che l'azzurra riesca a farlo questi due metri come l'ha fatto altre volte in carriera, tante altre volte salendo fino sopra quota 2 metri e 0,4, e forse Antonietta parte la rincorsa. Va su, il terzo tentativo Antonietta Di Martino, e andiamo, è a medaglia probabilmente Antonietta Di Martino, grazie soprattutto a quei tre salti fatti al primo tentativo, 1,89, 1,93, 1,97. Buon pomeriggio a tutti, non c'era giorno migliore per salutare il ritorno di Andrea Zorzi su questi schermi. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao, ben ritrovato. Cin cin, prendiamo una medaglia mondiale nell'atletica, medaglia di bronzo di Antonietta Di Martino che arriva dopo lo zero secco di Berlino. Insomma, un grande risultato per l'atletica italiana, gara vinta dalla Cicerova davanti alla mia prediletta Blanka Vlasic, campionessa del mondo uscente, inutile che ridi. Che non perde occasione per vedere quanto sia bella. Esatto, esatto. Più bella della nostra atleta Di Martino, non c'è dubbio, canoni estetici, insomma, questioni estetiche, però grandissima gara della Di Martino. Torniamo ad accarezzare una medaglia mondiale nell'atletica in un settembre, caro Andrea, adesso ne parliamo, in cui il pallone è fermo a centrocampo, si muoverà la settimana prossima perché questo contratto, dicono ancora oggi, verrà inchiostrato lunedì, non ci sono più grossi dubbi. Pallone è ancora fermo a centrocampo, l'Italia gioca nel calcio, gioca contro le Faroe, una partita che, insomma, come da pronostico vogliamo dimenticare in fretta, credo anche voi, 8-0-0-24-0-0-24. Ed è la sagra di settembre per tutti gli altri. Sì, è un mese di quelli importantissimi in cui convergono grandissime manifestazioni. In questi giorni, poi ritornando un po' alla vita normale dopo un lungo e bel periodo di vacanze, mi ha colpito ancora una volta come ci sia ormai questa abitudine a dividere gli spazi disponibili nei siti web, anche nei giornali, quindi tantissimo calcio, che mi rendo conto, so che con le sue ragioni, però ancora una volta dico cose super banali, super scontate, poca attenzione a tutto questo universo gigantesco che è il resto del mondo dello sport, in cui ci sono altri palloni di altre forme, ma ci sono anche sport che non hanno a che fare con la palla e che meritano grandissimo rispetto. Sì, è anche vero che è stato piacevole comunque in questi giorni vedere l'apertura dei servizi sportivi di quotidiani giornalisti, da Corriere della Sera in giù in su, dedicati ai mondiali d'atletica, dedicati ai mondiali di rugby che stanno per partire, dedicati a tutti questi altri eventi. A proposito, sentiamo subito la scheda di Cristiano Bartoloni. Molto volentieri, molto volentieri. Sentiamo, poi ne parliamo insieme. Ce n'è per tutti i gusti in questo settembre 2011. Manca il calcio? Non c'è problema. Tutti attaccati alla televisione per gustarci le nostre nazionali a caccia di medaglie in giro per il mondo. È iniziato ad agosto, ma ne teniamo conto comunque. A Daegu, città della Samsung, va in scena il Mondiale di Atletica, che ha già regalato grandi emozioni. In Lituania è la palla a spicchi a giocarsi il titolo europeo. Il trio NBA Bargnani, Bellinelli, Gallinari proverà a fare il miracolo e a portarci in alto. Il 10 tocca al volley maschile, con l'europeo in programma in Austria e Repubblica Ceca. Le donne dovranno pazientare qualche giorno in più, ma avranno il vantaggio di giocarselo in casa. La rassegna continentale è organizzata da Italia e Serbia. L'Ital Rugby vola in Nuova Zelanda per i campionati del mondo in casa degli All Blacks. Dal 16 guantoni incrociati per il mondiale di pugilato a Baku in Azerbaigian. Cammarelle e compagni dovranno confermare i successi di 2 anni fa. Il 19 scattano i mondiali di ginnastica ritmica a Montpellier, quelli di ciclismo a Copenaghen. Su un percorso adatto ai velocisti, i nostri proveranno a dar battaglia e a far dimenticare al CT Bettini la disavventura patita con il proprio aereo. C'è da giurarlo, sarà un mese di immersione totale in un universo parallelo. Nel calendario rivoluzionale francese, settembre era chiamato Frutti d'Oro. Speriamo sia di buon auspicio, non per i cugini d'Oltralpe, naturalmente. Oggi arriva la medaglia dell'atletica, in basket siamo ancora lì agganciati alle speranze, domani c'è la Francia da battere, poi ne parliamo dopo le due sconfitte iniziali, la vittoria sulla Lettonia di ieri. pallavolo come siamo messi, caro Andrea Zorzi? Sappiamo i 14. Tra 50 minuti inizia l'amichevole qui a Monza tra Italia e Serbia, e i ragazzi poi vanno direttamente in Austria per iniziare domenica prossima. Squadra, come diceva ieri Berruto, giovane, non anagraficamente giovane, perché si conoscono da poco. Rispetto agli standard italiani, che hanno sempre presentato formazioni abbastanza vecchie, questa effettivamente con Travizza, con Zaitsev, con Maruotti, sembrerebbe essere molto giovane. In realtà non lo è in assoluto. Una nazionale che ha fatto benino nella fase di qualificazione della World League, ha fatto malino nelle finali in Polonia, ha rifatto bene lavorando intensamente tornati dalla Polonia, ha vinto un torneo importante in Polonia pochi giorni fa, il trofeo Wagner, e adesso si presenta motivata. Berruto è convinto, i ragazzi anche, speriamo. Gli avversari sono più o meno sempre i soliti, la Russia sembra essere quella più forte, la Serbia è una squadra che, come tu sai, sa giocare a qualunque sport ci sia un pallone in mezzo, sa giocare molto bene. Poi altre sorprese, forse la Francia quest'anno è un po' meno pericolosa, ma ricordiamoci che Francia e Polonia, per esempio, nell'ultimo europeo hanno sorpreso tutti giocandoci la finale. Le ragazze malino invece, o malissimo a finale Grand Prix? Dunque, sembrerebbe malino, sì, allora finale sì, male, però hanno cambiato molte formazioni. Barbolini ha fatto un po' di esperimenti. Il Grand Prix ormai è da tanti anni un torneo molto molto lungo. Vedersi per esempio il Brasile, quello di Zé Roberto, il solito, che è arrivato in finale giocando perfettamente, ha perso la finale con gli Stati Uniti, che hanno rivinto il World Grand Prix. E però questo significa che tu hai dedicato o, che ne so, sprecato gran parte dell'estate per un torneo che è importante, ma che poi prevede per ogni squadra un torneo continentale. Io mi auguro che l'europeo, che finora è stato sempre ricco di soddisfazioni per Barbolini, possa essere una buona occasione. Tornano insieme, hanno tempo di lavorarci un pochettino, non c'è grande ottimismo, questo è vero, e mi dispiace perché ho l'impressione che la federazione, per esempio, talvolta abbia un po' finito quel rapporto di grande fiducia con Barbolini. Sono accaduti un paio di eventi nel corso dell'anno che potrebbero aver incrinato questo rapporto. Speriamo che questo non coinvolga il rapporto tra l'allenatore Barbolini e la squadra. Io credo ce la possano fare. Certo, partiamo da una situazione non brillante. Poi quest'anno è la porta delle Olimpiadi, no? Sono tutti tornei che qualificano per Londra, e quindi a maggior ragione sono importanti, Andrea. È importante. Tra l'altro poi quando si toma la scheda sembrava un po' di avere una specie di Olimpiade giocate in luoghi diversi, sì. In un... Era molto suggestivo, esatto. No? questo scenario di un'agenda di settembre fitta da morire. Ma che poi dovrebbe essere la cosa più bella di poter seguire il mondo sportivo, perché poi la discussione non è tanto di togliere spazio al calcio giocato, ci mancherebbe altro. Sicuro. È che il tempo dedicato al calcio mercato, alle polemiche, alle sceneggiate o ai tatuaggi dei calciatori sono esagerati rispetto a quello che invece è lo sport giocato anche in altre attività. Sicuro. O quello che... Sicuro, poi insomma vedremo anche tanto sport sugli schermi della Rai, anche se ti confesso l'altro giorno sono morto dal ridere quando guardando l'Italia del basket sentivo la telecronaca al telefono come negli anni 70, insomma, sono cose che andrebbero evitate. Difficilmente... Questo per stare dalla parte di nessuno, però per la cronaca difficilmente sentiremo su Sky una telecronaca al telefono, insomma. No, su Sky sentiremo telecronache di calcio moltissime, di rugby e poco altro però per adesso. Sì. Per un po' di tempo. Forse la grande innovazione della stagione televisiva o della stagione sportiva proprio questa. Loro hanno fatto, credo abbiano fatto delle scelte, non so quanto volutamente, certamente hanno abbandonato i campionati, anche il basket adesso non sarà più un programma che andrà su Sky, si preparano già all'Olimpiade, che sarà sicuramente un'Olimpiade particolarissima, seguita con grandi mezzi. Certo. C'è da dire che la cosa bella di questi anni è che lo sport si è abituato un po' ad avere un po' di continuità con discipline diverse, che si lasciano lo spazio, si rimpallano le grandi manifestazioni, e quindi io ricordo all'inizio, sia con Telepiù ma poi anche con Sky, l'idea era che lì avevi una finestra sull'intero mondo sportivo, sia per quanto riguarda le notizie ma anche per quanto riguarda lo sport giocato. Adesso questo è vero su Eurosport. Eurosport presenta a volte anche discipline che nessuno conosce, sì. Però c'è questa sensazione di grande polisportività che io lo considero un valore a prescindere. Sai che l'altro giorno ho chiamato il tuo amico Matej Černić? Sai perché? Bene. No, dimmi. Perché per fargli raccontare la sua esperienza ai confini del mondo, no? In Siberia. Erano i giorni di Eto'o. I giorni di Eto'o, che è stato secondo me uno dei casi più interessanti, più divertenti dell'estate, no? Perché, sai, la proposta indecente la accetti o non l'accetti? Metti da parte gli ultimi anni di carriera ad altissimo livello per farti ricoprire d'oro, sei un giocatore professionista, che fai? I soliti moralisti dicono ma no, doveva rifiutare, continuare a fare il calciatore, non si può vendersi sempre al denaro. Secondo me ha fatto benissimo ad andare in Russia, non lo so. Dunque, forse si potrebbe provare a pensare quali erano le altre ipotesi. Se la proposta indecente è l'unica e tutte le altre sono indecenti al contrario, forse non c'è scelta e fa benissimo accoglierla. Non è che ha detto fosse proposta una realtà in cui stai sì. a casa, cioè no, poteva anche scegliere se avesse avuto andare via dall'Inter. Metti che ci fosse anche questa, lui voleva andarsene dall'Inter perché aveva considerata finita la sua esperienza, perché non si trovava bene, lo dico io, poi magari non è assolutamente vero. Forse in Europa poteva trovare una situazione che fosse un pochettino più compromissoria, perché lì è veramente una scelta estrema. Estrema. Vendi gli ultimi anni di carriera, ma guadagni il doppio di quanto avresti prendevi all'Inter, di quanto avresti preso probabilmente in ogni altra squadra di palloni in Europa. Io ho avuto occasione di sfiorare un paio di volte atleti che sono finiti negli Emirati Arabi. Quelli che hanno avuto una carriera media ne sono abbastanza felici, un po' perché riescono a chiudere una carriera guadagnando un po' di soldi che sono particolarmente sì. utili, un po' perché nel loro personale magazzino di emozioni, anche quello è un'esperienza interessante, sì. per un campione, forse per un super campione come tu, non ho idea come se la caverà in un posto così distante. Matei, cosa ti ha detto a proposito della Siberia? No, mi ha raccontato insomma la sua vita lì, fa quello che faceva che farà e tu, no? Cioè, viveva praticamente a Mosca. Venivano trasportati in aereo ai confini del mondo, scendevano, giocavano, tornavano indietro. Che per un atleta credo sia un'esperienza anche abbastanza curiosa e particolare, no? È chiaro che lo fai per soldi, ma io trovo che questo sia un discorso non peccaminoso ma del tutto legittimo. Sai che io non sono convinto che si debba fare solo per soldi. La scintilla è sicuramente quella. Però in mente Lloyd Ball, palleggiatore oro olimpico con gli Stati Uniti a Pechino, lui è un ragazzo veramente un ragazzo grande, tra l'altro ha una storia, papà era un militare, quindi quando lui parla spesso delle sue responsabilità nei confronti degli Stati Uniti dice io voglio dare qualcosa al mio paese e lo ha fatto vincendo e tornando in nazionale. Lui ormai gioca da 5-6 anni a Kazan, dove adesso è andato sì. Valerio Vermiglio, ed è vero, è difficile vivere lì, è un po' complicato, non è facile stabilire relazioni emozionali con i russi, perché però è anche un'opportunità di fare un'esperienza radicalmente diversa, e quindi non è solo andare lì a prendere i soldi e guardare quanto è diverso la certo. relazione tra gli statunitensi, gli europei e i russi, ma anche una grande occasione per stare in un posto diverso che ti propone forse un ponte di contatto con una realtà che non conosci. Quindi i soldi ti fanno fare questa scelta, ma visto che sei là forse la puoi sfruttare un po' di più che startene chiuso all'interno delle cuffie dell'iPod sì, o sì, attaccato sì, al sì. telefono. C'è dubbio, Andrea. Solito, caro Andrea, gli ascoltatori portano il loro contributo anche con gli sms 349-238-6666, e c'è chi vorrebbe sentire due parole su Misano e la Ducati sempre più nel baratro. Potete dirle, ma certo le diciamo ogni volta, insomma questo psicodramma di Valentino Rossi è stato uno dei grandi ed è uno dei grandi temi della stagione sportiva. C'è chi vorrebbe sentir parlare di hockey su pista, ci sono i mondiali anche in questo sport. C'è chi dice, ed è vero, e questo è un altro tema molto interessante, di Pippo Inzaghi fuori dalle liste Champions, lui che è il re d'Europa. E per me e per noi, per me e per Andrea Zoggi, un grande piacere far due chiacchiere anche con Mario Sconcerti. Ciao Mario, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao. Senti, io voglio chiederti subito se sei d'accordo con Sacchi, che è sul giornale per cui scrivi sul Corriere della Sera, vede un'inversione di tendenza con la nazionale che trascina il campionato e non più viceversa. Sei d'accordo con lui? Ma sarebbe da augurarselo, ma mi sembra più un augurio che una realtà. Anche perché mi sembra che anche lui proprio faccia così, se lo auguri, perché sa che allenare la nazionale è da selezionatore, non da allenatore. C'è un vantaggio questa volta, che Prandelli allena la nazionale come se fosse un club. Per la prima volta si vede un gioco da squadra di club, da buona squadra di club. Però credo che la nazionale di Prandelli sia una nazionale abbastanza fragile per poter avere questa spinta, per poter dare a un movimento stanco questa spinta. Sì, qualitativamente tu dici fragile. Sì, esatto, sì. prima con Andrea Zorzi parlavo di Eto'o, che è stato uno dei casi più divertenti, più interessanti dell'estate, e mi veniva voglia di chiedergli, poi non l'ho fatto, se anche Andrea Zorzi avrebbe accettato la proposta indecente. Avrei voluto andare a giocare in Giappone, tu sai quanto io ami quel paese, ma avevo l'impressione in quegli anni che avrebbe significato andare in pensione. Io ho preferito smettere prima, convinto che fosse meglio per me, ma anche per i miei tifosi, smettere ad alto livello in Italia piuttosto che andare a chiudere in un paese dichiaratamente con un campionato troppo scarso. Sì, invece tu, caro Mario, ha detto sì a questa proposta, ha venduto gli ultimi anni della carriera. Io non ci trovo niente di peccaminoso, ti dico la verità, in questa vicenda. No, nemmeno io, semmai è una vicenda strana che comincia con Leonardo, nel senso che l'Inter perde l'allenatore alla fine di giugno e alla fine d'agosto perde l'uomo più rappresentativo, insomma. Questo ha dovuto in pratica ricominciare due volte, questo è stato curioso. Poi sai, il campionato russo sta diventando un campionato anche abbastanza importante, loro sono quarti in Russia, sì. Sono una squadra molto particolare, nel senso che vivono a Mosca e poi il venerdì sera prendono l'aereo del presidente e vanno a giocare nella loro città. È chiaramente un eccesso, però non così straordinario, credo, certo, che si possa fare. Certo, Andrea. È esattamente così. Stanno a Mosca, in una città che è cresciuta molto, che è cambiata moltissimo, irriconoscibile per chi non l'ha vista negli ultimi 5-6 anni, una città costosissima, tra l'altro. Sì, la più cara del mondo. Assolutamente sì, anche un po' pericolosa, non come qualche anno fa, e poi prendono questi aerei, vanno in un posto, considerate che il legame tra giocatori e tifosi in Russia è molto più diluito di quanto non siamo abituati ad avere noi dalle nostre parti, e quindi questa sorta di mercenari che si spostano è abbastanza comune, perché molte città russe sono molto, ma molto distanti da Mosca e sono molto vicine al Polo Nord e dalla vita reale. Mario, si è rotto lo stallo, come saprai, il pallone lo vedremo rotolare, contratto si firma, il teatrino dello sciopero è finito. Io continuo a pensare nella riserva indiana che i giocatori qualche ragione l'avessero in tutta questa vicenda, e che il vero punto dolente sia quello che tu hai sottolineato oggi, hai spiegato oggi sul Corriere della Sera, e cioè il numero dei calciatori tesserati in Serie A che ha raggiunto la cifra record, 800. Sì, sono d'accordo anch'io, anche se gli 800 tesserati per la Serie A non è più sostenibile. È chiaro che, per esempio, tutto l'intero debito di gestione, tutto quello che non si riesce a coprire con incassi e televisioni durante la stagione, che equivale a 355 milioni di euro, va sul conto degli esuberi, lo assorbono i giocatori tesserati in eccesso. Questo ormai ci sono pochi dubbi. Ho un'altra impressione in più, che ci sia un ritorno una voglia di forza delle società, e credo che sotto questo aspetto andranno avanti. Cioè, pensa che cosa potrebbe essere, per esempio, un Lotito presidente di federazione, sì, con un presidente di Lega chiaramente presidente di società. Potrebbero fare i presidenti del pallone, gli imprenditori del pallone potrebbero fare una valanga di cose che in questo momento non possono nemmeno pensare. Sicuro, vogliono riappropriarsi da padroni del gioco. Ma quindi di mezzo c'è questa sfida, quindi, di potere proprio dai presidenti e la federazione? Eh beh, sì. Sì, c'è questo, anzi credo che proprio sia stata una spallata alla federazione questa, e credo che sia un momento di rottura. Certo, bisogna trovare, addirittura si sono trovati da soli i tre presidenti di Lega, Lega Dilettanti, Lega Professioniste, per cercare una soluzione, per pensare di commissariare la Federcalcio. Sta avvenendo in modo chiaro, ma non dirompente, e questo mi fa pensare che ci sia una strategia a medio termine, ma che la volontà sia quella. Non escluderei addirittura, ma questo si entra, che ci sia qualche cosa di internazionale, nel senso un ritorno di forza del vecchio G14, sì. Cioè, ci sono 14 grandi squadre che per anni hanno cercato di trovare degli interessi in comune, E poi si sono ritrovati un ex giocatore a comandare l'UEFA, sì, cioè sì, Platini. E credo che adesso tutto questo sia molto mal sopportato. Anche se vediamo, forse sono soltanto idee mie. E ultima domanda, il CONI in quanto federazione delle federazioni come si muove in mezzo a questo giocattolo troppo grande per essere considerato come un'altra federazione? Mi sembra che la cosa giusta l'abbia detta tu, cioè, si muove male perché il calcio, se vuole, decide il CONI, decide anche del CONI. In termini di legge, in punto di legge, c'è poco da dire, per cui il CONI potrebbe intervenire su delle regole non rispettate. In questo momento peraltro è alle prese, è proprio una battaglia così virulenta, non l'avevo mai visto, c'è questa insopportabilità tra Lotito, Petrucci e Pagnozzi, cioè i presidenti, sì. Il presidente della CONI Servizi e il presidente del CONI, per lo stadio olimpico, ma veramente in modo, è stato addirittura inibito per 2 mesi Lotito per aver offeso Petrucci e Pagnozzi. Siamo molto vicini al tribunale, sì, però il calcio resta un'altra cosa. Mario, un'ultima cosa, il mercato più low cost che ti ricordi, che si ricordi, è una notizia, la notizia è che non abbiamo più un club competitivo in Europa. È chiaro che bravi sono quelli che riescono a trasformare la depressione anche economica in occasione, non so se ce la faranno le nostre. È molto difficile, poi sai, lo scorso anno sono successe delle cose che forse abbiamo sottovalutato, per esempio ci sono state squadre come lo Shakhtar o come il Tottenham che sono addirittura arrivate in semifinale, quindi ma è successo soprattutto perché lungo la strada hanno bucato le grandi squadre. Il dato di fatto vero è che non c'è grande club che non abbia un grandissimo deficit. Noi stiamo, guardiamo il Barcellona con gli occhi spalancati e poi andiamo a vedere a 500 milioni di debito. Sì, sì. Il Manchester United è costretto a vendere un terzo della propria proprietà in borsa, alla borsa di Singapore, perché ne ha addirittura 800 di milioni di debito. Quindi la sostanza del calcio resta questa. È estremamente divertente, ma non si paga, non riesce a pagare. Grazie Mario, grazie davvero. Buona giornata. Grazie. Ciao anche a voi. Grazie a Mario Sconcerti. Adesso cominciamo, caro Andrea, a parlare con gli ascoltatori. Mi sembrano temi molto interessanti. C'è chi dice: ma quanto è saggio il mitico Zorro, non è che dà consigli, che ha consigli per Tremonti? Non so se... No, non mi pare sia la posizione più auspicabile in questo momento. Invece, quanto a me, ovviamente sono considerato per quello che sono, le mie domande, le domande a me rivolte sono queste: ma chi è più bella, Vlasic, Zimbaeva o Felix? Mi domanda un ascoltatore. Io rispondi. Io ho un debole per Blanka Vlasic, poi fate voi. Insomma, io ho visto l'anno scorso lei Zimbaeva, che ha una faccia bellissima, veramente bellissima. È un po' piccolina rispetto a quanto mi aspettassi. Negli ultimi anni dedicato molto più tempo ad essere... L'espressione un po' cattiva, mi fa un po' paura. Tu dici? Boh, un po' sì. Preferisco Blanca, con quelle gambe interminabili. Vabbè, dai, lasciamo stare. 800 24 00 24, numero verde. Con me è tornato Andrea Zorzi per festeggiare la medaglia di Antonietta Di Martino e non solo. Poi parliamo anche di Bolt, che si è scrollato di dosso, credo che la delusione per quella cosa pazzesca di 100 metri, ha già vinto i 200 metri e ci mancherebbe altro. Antonio da Isernia e Alessandro da Pescara sono lì già da un po', mi scuso. Antonio, buongiorno. Salve, salve. Dica. Dunque, signor Genta, io ho due domande, due riflessioni. La prima, lei l'altro giorno, conversando con Paolo Bargigia, sì, ha dichiarato che ritiene che il Milan quest'anno non sia competitivo per vincere la Champions League. Sottoscrivo, ripeto, confermo. Ecco, vorrei sapere perché, se può spiegare più, cioè come mai, perché, cosa è che non ha, che invece tutte le altre squadre hanno. Poi la seconda riguarda Mourinho, per il gesto che ha fatto nella finale di Supercoppa. Io dico che Mourinho è il classico allenatore che non sa perdere. Ecco, lo so. Ecco, cioè che non sa perdere. E quando è che gli viene inflitta una bella squalifica? Ma si parlava di... Lì ho perso un po' il conto della vicenda giudiziaria, ma si parlava di 12 giornate di squalifica, che mi sembra una bella squalifica, no? Che sia uno che non sa perdere è indiscutibile. Però è anche uno che sa vincere, insomma, è anche uno che sa vincere, che sta soffrendo in maniera terribile questo complesso di inferiorità reale nei confronti del Barcellona. Quanto al Milan, confermo tutto quello che ho detto. Cosa c'è da spiegare? Secondo me il Milan è più debole rispetto al Barcellona, al Real Madrid, al Manchester United, forse anche al Manchester City, in costruzione, ma con un sacco di soldi, come sapete voi. Insomma, io credo che non sia una delle 5-6 squadre, ci metto anche il Chelsea naturalmente, delle 5-6 squadre che, e forse il Bayern Monaco, delle 5-6 squadre che sono le favorite per la prossima Champions League. Secondo me l'Italia non ha in questo momento una squadra in grado di vincere la Champions League. Poi sappiamo bene che è un torneo talmente aleatorio che tutto può succedere del suo bello, ma normalmente non si esce da quel circolo lì, ecco. Sì, questo negli ultimi anni è andata così, anche se io penso ci sia un serbatoio molto interessante di energie, che non è quello che definisce il valore tecnico di una squadra. Cioè, valutata così sulla carta, hai ragione, si può stilare una classifica che è fatta dal numero di grandi campioni e dall'esperienza di quei campioni a livello internazionale, e non credo che molte italiane siano in grado di essere posizionate in alto. Poi esiste un'altra possibilità, che è quella veramente entusiasmante, cioè di riequilibrare queste mancanze, certo, giocando alla grande. Sai cosa pesa molto in Italia? L'idea che noi viviamo un po' sugli allori del passato e percepiamo questo come una diminuzione invece che come uno stimolo a riconquistare, ad andare avanti, e quindi viviamo un po' come negativamente e siamo un po' frustrati da questo, no? Siamo frustrati, questa siamo è frustrati. È ciò che ti impedisce di avere quell'attesamento entusiasta, appassionato, per fare con quello che hai, certo. No, e invece poi mancano i soldi, i campioni sono agli altri, e è così. Questo è dato di fatto, se è così vincono loro. Però è bello vivere anche da underdog, no? Ma l'orgoglio, anzi, di vivere da underdog. Il problema è che l'underdog lo fa quando per davvero non ha mai vinto. Molte di queste squadre invece hanno un recente passato di alto livello e, ripeto, sentono più la frustrazione di non essere come vorrebbero essere, più che il piacere di dire sei più forte di me, dimostrami in campo. Sì, vediamo cosa succede. Verissimo. Alessandro da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo... Se riuscite a spiegarmi un mistero, la campagna acquisti del Milan, in particolare l'abilità di Galliani, sì, lo scorso anno compra Ibrahimovic, mi sembra, per, o lo prende in prestito, gli autoriduce l'ingaggio, tenuto conto che Ibrahimovic l'Inter l'ha venduto, lo dico in lire così ci capiamo meglio, a 92 miliardi di vecchie lire. Sì. Stranamente il Milan lo compra o glielo dà in prestito per 30, roba del genere. Milan, se non ricordo male, 24 da pagare a rate. Sì, si autoriduce l'ingaggio, non ci credo neanche se lo vedo, ma comunque va bene. Come Ibrahimovic, bravissimo come calciatore, non altrettanto nelle coppe, ma comunque nulla da dire, il quale è stato denominato zingaro, in quanto va dove lo porta il cuore, ossia dove lo porta la moneta, si autoriduce l'ingaggio. No, io non ci credo, però. Appunto, non ci credo neanche io. Un ci credo, però, non però ci credo. I media, soprattutto sì, le notizie, ma sa, lei sa che le notizie ufficiali, quello che dicono, sono queste. Poi non lo so, poi se Ibrahimovic si autoriduce l'ingaggio, nemmeno se lo vedo. Poi detto questo, insomma, Galliani ha fatto un gran colpo, approfittando anche del fatto, non dimentichi però che l'anno prima un gran colpo l'aveva fatto anche l'Inter, quindi per par condicio, no? Con Ibrahimovic è detto che viene via per pochi soldi e dietro conguaglio, quindi diciamo che hanno fatto un affare per uno, il Milan e l'Inter, in due anni. Secondo me un anno dietro l'altro, quest'anno non ce l'hanno fatta, secondo me riuscito a prendere Messi per a livello europeo. Prova ad immaginare una specie di grande piramide, sì, in alto sono le squadre che possono veramente dominare, che dominano e che danno gli spazi di movimento agli altri, che pian piano vengono dopo. Secondo me il Milan e Galliani è posizionato abbastanza in alto, in alcuni casi ha accesso a degli affari molto importanti, giocatori molto importanti, però all'interno di un meccanismo che è regolamentato anche dagli altri. Quindi Libra, che non può restare a Barcellona perché dopo un anno non fallimentare con i risultati non lo volevano più, questi lo mandano via, ci rimettono un po' di soldi, ma che sicuramente ha recuperato da qualche altra parte, continuano a vincere ancora di più, e in qualche modo ognuno deve muoversi negli spazi che gli vengono lasciati liberi. In questo Galdiani mi pare sia molto bravo a tenere più in alto possibile le opportunità del Milan. Dopodiché questo è il mercato ed è un pezzo del gioco, perché certo, sul campo potresti guadagnarti ancora un po' di potere in più, certo, per andare a bussare forse da chi è più potente e dire guarda che questo giocatore lo vorrei per, certo, altre ragioni. Beh, d'altra parte l'affare l'anno prima, come dicevo, l'ha fatto Moratti, che non ha Mediaset, quindi o no? Esattamente. Ha poi fatto più o meno la stessa cosa, Ibrahimovic e tu più soldi, e ha vinto quello che ha vinto. Gli underdog poi sono gli arabi che arrivano e loro non chiedono il permesso. No. Loro non bussano alla porta, la buttano giù. Franco da Pescara, buongiorno. Buongiorno Giancarlo. Salve. Io mi permetto di tirare simpaticamente le orecchie, perché so che lei è comunque legato al rugby. Io? E volevo dire, sì, beh sì, nel senso che comunque non dà spesso udienza a noi poveri tifosi, magari al ritorno da qualche trasferta, come sto facendo io. Volevo solo ricordare che oggi inizia anche per la Benetton, la Celtic League di rugby, sì, io sto tornando via da Treviso dopo una bella partita finita 9-11 per il Connacht, e sinceramente dopo aver sentito considerazioni estenuanti sullo sport, secondo me, o forse solo un auspicio, in calo, probabilmente mi sarebbe piaciuto sentire qualcosa anche sul rugby, magari tramite il vostro giornalista di riferimento. Domani gli Aironi giocano fuori a Canecli, sì, e volevo semplicemente dire che a Treviso è stata una bellissima partita, un gran pubblico malgrado la giornata torrida, c'eravamo noi che venivamo da Pescara, io e mio figlio, addirittura un aquilano abbonato al Benetton. Tutto qui, vi saluto. Grazie. E vi sento per radio. Grazie a Franco da Pescara. Ho letto una sottile nota polemica, ma non capisco perché noi di rugby abbiamo sempre parlato, continueremo a farlo con grandissimo piacere, però vorrei sapere ad esempio quante lettere di tifosi arrabbiati arrivano alla Gazzetta, che ieri sull'apertura della Celtic League, che di pagine non ne ha due o tre o quattro, ma ne ha tante, dedicava 10 righe, e oggi poco più, insomma. Giusto chiedere conto a un programma sportivo che dura un'ora, spazi per qualunque tipo di sport, e io sono ben felice di aprire la porta, Andrea Zozzi più di me, di aprire la porta a qualunque tipo di sport, però presentare la lista della spesa non mi sembra elegantissimo. O si può comunque ricordare ciò che abbiamo dimenticato noi altri, magari senza lo spirito polemico. Il messaggio sull'hockey su pista era, certo, c'è anche questa cosa, tanto riconoscendo che l'hockey non è in questo momento lo sport più seguito, però è vero, affronta un mondiale. No, ma poi soprattutto vorrei che passasse un concetto, non dirmi ma perché non parli di questo. L'idea è, parlatene voi, avete il telefono, avete i microfoni aperti, avete questa straordinaria occasione, 800 24 00 24, questo è un happening, poi, che noi ne siamo felici. Sul rugby sappiamo che sono arrivati in Nuova Zelanda accolti da 300 tifosi, con un viaggio di 30 ore, col sonno organizzato dai loro medici. Sappiamo un sacco di cose sull'Italia del rugby che sta per iniziare il mondiale. Inizia tra una settimana, oggi accolti tra l'altro da danze maori, cioè Paris, non so se ce l'abbiamo Paris dopo la manifestazione di oggi a Nelson, hanno accolto gli azzurri non con l'aca ma con questa danza di benvenuto quasi commovente. Il capitano? Sinceramente non ci aspettavamo per niente un ricevimento così, vedere tutta questa gente, non so quanti siano stati, ma forse 400-500 persone con le bandiere, è stato veramente molto molto carino. Questo era Paris, speriamo di parlare tantissimo della nazionale di rugby, perché vorrebbe dire che fa tanta strada ai mondiali, cosa di cui mi permetto di dubitare, e poi mi permetto di dubitare anche del fatto che qualche italiana riesca a far strada in Celtic League. Anche quest'anno sono in attesa di progressi, poi vengo bacchettato dalla gente del rugby, per cui restano sempre altri valori che non siano risultato, io non lo so, mi permetto veramente di dubitare come sempre. E poi ho una telefonata di un tifoso di hockey su pista, di pallamano, di pallanuoto, che dice non parlate mai di noi, potremmo dire sì avete ragione, scusateci. A un tifoso di rugby che dice non parlate mai di noi è un po' più difficile dar ragione, perché in realtà lo spazio dedicato al rugby negli ultimi anni è notevole. con piacere, torno a ripetere. Parlava Zorro e sembrava di sentire Velasco. Che nostalgia, Beppe da Brescia. Questa associazione non te la scoglie, non te la togli più di dosso, eh. No, Andrea, io volevo parlare con te invece anche di un'altra cosa, saltando di palo in frasca, come piace a me. Sarà un complimento, sarà quello. Lo so, io te lo giro così, poi fai tu. Il Velasco in Iran adesso. Sì, Velasco, come si trova? L'hai sentito? Non ultimamente, l'ho sentito poco tempo fa, mi diceva che sarebbe stato impegnato moltissimo fino a novembre, perché se riesce a vincere i giochi asiatici si qualifica per la World Cup, che quindi è la grande occasione per partecipare alle Olimpiadi. Immagino sia molto felice, ma però lo chiamerò uno dei prossimi giorni per sapere un po' come si trova. E poi ce lo dici? Anzi, potremmo pensare di dedicarci un po' di tempo. Ma certo. Potremmo certo. Organizzarla, dai. Potremmo fare questa conversazione pubblica, facendo finta di niente, eh? Facciamo lo scherzone. No, senti Andrea, io volevo, saltando di palo in frasca, ti dicevo come piace a me e come mi piacerebbe fare anche con gli ascoltatori, 80024 0024. Un altro dei casi cui ho accennato prima, non ti dico divertenti, ma senz'altro interessanti dell'estate, è stato quello di Bolt, no? Di questa finale dei 100 metri in cui ha palesemente toppato, era neanche favorito di più, no? non poteva perdere, l'unico modo che aveva per perdere quella medaglia era quello della falsa partenza, e lì è caduto in maniera macroscopica. Cos'è successo secondo te nella sua testa? Non ho una palla di idea, penso che lui è vero, però... Partire da questo, guarda. Oggi ho visto la finale dei 200 metri. Sì. E ho pensato, chissà come ci si sente ad essere l'uomo più veloce del mondo, ma di gran lunga. Non il più forte, quello che salta più in alto, quello che salta più in lungo. L'idea è che l'uomo più veloce del mondo è proprio l'archetipo. E sei l'unico, quello, non c'è nessuno al mondo che va più veloce di te. E quindi è una situazione, immagino, meravigliosa, di una semplicità unica, perché la corsa è proprio quella, e è una sensazione. E quindi lui è un ragazzo alla fine, abbastanza giovane, che si trova in una situazione unica. Oggi mi è sembrato che nei tanti giri d'onore che ha fatto dopo 200 metri fosse quasi stanco di rifare il gesto del lampo e di ballare. Lo fa perché ormai fa parte del suo personaggio, perché... Marketing. Non so se sia marketing cosciente... Ma non mi è sembrato che nei suoi occhi ci fosse proprio quella gioia naturale, spontanea, istintiva, che invece caratterizza ogni tanto i gesti di esultanza degli atleti. Della Blanca Vlasic, uguale, bellissima ragazza, che si mette uno scialle bellissimo quando fa tra un salto e l'altro, però vedi che lì c'è anche la coscienza di fare qualcosa che sai che televisivamente funziona. Questo però è un altro aspetto. Poi l'idea di essere l'uomo che si mette lì, questo, ma l'hai visto? Toccano i piedi a terra un istante, hanno le guance rilassate e vanno, cioè sono di una bellezza, sì, sei l'uomo più veloce del mondo. E non riesce a vincere medaglia d'oro nei 100 metri, ma secondo me è stato, poi lo sentiamo anche la telecronaca Rai di questa gara, anche perché dopo il traffico vorrei chiederti di un'altra cosa, cioè di quella medaglia d'oro persa per la coda di cavallo, che è un'altra vicenda. Non presa. Persa per la coda di cavallo, incredibile. A dopo. Dunque torniamo, il messaggio più bello è quello di Alex da Taormina, che scrive: parlate di quello che volete, l'importante è che siete tornati. Grazie mille. E Beppe da Brescia, quello che prima ha detto di Velasco, eccetera. Certo che è un complimento, siete stati la squadra più forte della storia degli sports. No. Però è stato divertente far parte di quella squadra. A proposito, Taormina... Viva la Sicilia, eh. So che sei stato lì. Sì, a Modica, che non è vicino a Taormina, ma due volte quest'anno. Prima con Tracce di Sport, in cui ti ho raccontato. Sì. E poi a luglio, fine luglio, per fare un corso di scrittura di viaggio a Modica, paese bellissimo, con un caldo incredibile, però veramente una bella esperienza. E la Sicilia si conferma essere un luogo magico. Luogo magico, certamente. Beato Alex che ci abita, penso un po'. Senti, ma sentiamo la telecronaca della gara dei 200 di oggi? Partenza valida stavolta, si è tirato un po' il fiato Usain Bolt, subito forte, è forte anche Walter Dix in questa parte iniziale. Walter Dix, Usain Bolt che entra per prima nella rettilinea finale, l'urlo del pubblico accompagna Usain Bolt in questi ultimi 50 metri per il bronzo. Christophe Lemaitre poi Usain Bolt taglia il traguardo, 19:42, grande risultato cronometrico, grande risultato cronometrico. Usain Bolt va a vincere, si riprende il titolo che è suo, quello di campione del mondo, non più sui 100 e sui 200, soltanto sui 200, ma che grande dimostrazione di forza da parte del giamaicano. prendi la, la telecronaca. Mi piace un sacco sentirla alla radio, sentirle solo in cuffia, senza vederle chiudendo gli occhi. Bravissimo. Sai che quando Mori vinse i 400, hanno usato la telecronaca proprio come se fosse l'ideale, il modello a cui ispirarsi. Perché veramente bravissimo, poi conosce tutto dell'atletica. Sì. Veramente al top level, in questo caso, quando c'è da dirlo lo diciamo, e non al telefono. Intanto, per alla Vuelta, oggi c'è una tappa importante, Taramae, estone, Carnea ha vinto la tappa di oggi, Bradley Wiggins ha conservato la maglia amarella di leader, mentre Nibali ha preso una bella bambola, 2.05 dal vincitore sul traguardo. Voglio tornare a Bolt invece, perché in quella finale dei 100, secondo me, lui forse ha sentito eccessivamente la pressione dell'essere troppo favorito. Cioè, mancano i rivali più forti, manca Powell, manca Gay, mancano tutti, può solo vincere, e in quel momento lì ha perso. È possibile? Sì, un atleta di questo livello? Certo che è possibile, ed è vero che a ripensarci dopo vengono fuori una lunga lista di ragioni che potrebbero aver creato pressione a Usain Bolt. È vero però che quando ci si allena, non ci allena solamente per andare più veloci, per avere i muscoli rilassati, quelli che non servono per correre più velocemente, ma anche per avere la testa che pensa esclusivamente a ciò che può essere utile per farti vincere la medaglia. Se in quel momento, per un istante, è passato questo lampo nero nella testa della preoccupazione, vuol dire che lo stato di forma di Usain non era eccellente come è stato in altre occasioni. E però è sempre così: la prima volta, quando vinci da non favorito, tutto non è facile, certo. Ma è bellissimo. Rivincere è più difficile, rivincere ancora da favorito veramente molto molto complicato. Ho avuto l'impressione, io non sono un grande tecnico, il 19.40 farebbe pensare a una corsa straordinaria, non mi è sembrato però che nel retino finale lui fosse così sciolto e così naturale come in altre occasioni, perché evidentemente mentre correva c'era qualche istante in cui pensava mannaggia i 100 metri, non c'è nessuno, e quindi qualche piccolo disturbo che gli ha impedito di essere un uomo che va più veloce degli altri. Sto sorridendo di nuovo di fronte a questa fotografia della Isanova che ha perso la medaglia d'oro per questa coda di cavallo che ha toccato la sabbia in anticipo. No, rido perché Andrea Zozzi mi raccontava prima che lui ha perso uno scudetto per lo stesso motivo. Questo non si, io l'avevo rimossa, ti racconto cose così off. Chi la sa, la questa sa, non la sapevate, chi non la sa, però sì. Allora? Perché il discorso è, pensa ai miei compagni, mannaggia quanto mi hanno insultato e maledetto in quel momento. Non riesco a dar loro torto. Cosa ti racconti? Tu sei banalmente competitivo, vedi? No, era un quinto set, credo di gara 4, non ci giuro, però credo fosse gara 4 a Milano contro la Sisley Treviso, immagino 93 o 94, una cosa del genere. Tie break, Negrao, giocatore brasiliano, va in battuta, batte e la palla sta per finire fuori, passa molto vicino a me, mi sposto, capelli lunghi come ho sempre avuto, la palla colpisce i miei capelli, che però fanno un po' di rumore e sono considerati parte del corpo. Quindi il punto va alla Sisley, perché io da pingolone mi sono fatto colpire in un momento non cruciale, mostruoso. E i miei compagni mi avrebbero ovviamente mangiato, io mi sarei, non ho idea, nascosto, non era il punto decisivo, ma era il punto del 14, quindi insomma in quel momento lì. Poi era decisivo, poi c'era ancora il cambio palla, quindi per fare un punto bisognava farsi un mazzo quadro, e gliel'ho regalato alla Sisla il punto decisivo. Cioè, tagliarti i capelli no, eh? Ci ho pensato dopo, per la verità. Bravo. Giocare col cerchietto. Senti, ma c'è chi vorrebbe una tua opinione, un ascoltatore vorrebbe una tua opinione, una domanda via SMS, su un altro caso di quest'estate. Poi c'è Mario da Verona in linea. Un altro caso di quest'estate. Ma quanto inutile gossip si è fatto attorno alla Pellegrini? Tanto, troppo. E loro ci mettono del loro. Bravo. Sai, alla fine sono cose che banalmente alla gente interessano. Questi ragazzi si divertono, non fanno nulla per nascondere, probabilmente fa parte anche del personaggio che si sono costruiti, e anche qui non ci trovo niente di peccaminoso, insomma. Dunque, hanno 22-23 anni, mi pare, da Pellegrini, quindi voglio dire, Non c'è nulla che debba essere considerato. Poi sembravano le cronache da una gita scolastica, quelle che arrivavano dai mondiali, dai mondiali di nuoto. Non guasterebbe se intorno alle Pellegrini ci fosse qualcuno che almeno la mette in guardia di quelle che sono le conseguenze di atteggiamenti normali per i suoi coetanei e che hanno conseguenze diverse per lei. Salvo poi sapere che da Pechino vogliamo sapere che ha già venduto l'esclusiva della sua prima intervista quando torna in Italia. Quindi le conseguenze, non vedo particolari conseguenze negative. Poi lei è molto brava a sopportare anche questo tipo di pressioni. Le crisi di panico che a volte dipendono anche dalla condizione di pressione in cui ti metti fuori, non è che evidenziare tutto così sia non è liscio. Marin che dice sono ancora innamorato, ho perso 6 kg, è un atteggiamento infantile, però non è come se niente fosse, anche perché qualcuno dice con che cui... si paga in qualche maniera. Io penso di sì, se non fosse stato anche solo in distrazione. Abbiamo detto che Bolt forse ha perso concentrazione perché era troppo favorito. E, insomma, io immagino che tutti questi aspetti personali che poi c'entrano poco con lo sport ma che lo coinvolgono non sono trascurabili. Dopodiché non c'è un comportamento da stigmatizzare, hanno sbagliato, però sappiate che se vi comportate in questo modo vi esponete a una serie di pressioni che poi alla fine potrebbero nuocere. Esatto. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto bentornati anche da parte mia. Grazie. Alcune considerazioni. La prima è dopo aver sentito il radioascoltatore di circa mezz'ora fa che si stupiva del perché non dava il Milan come favorito per la Champions. Mi ha fatto sorridere perché evidentemente non neghiamo anche l'evidenza. Io penso che attualmente in Italia di grossi campioni ce ne siano gran pochi, forse nessuno, e soprattutto non abbiamo un gioco di squadra che possa sopperire la mancanza appunto degli stessi campioni. Dopodiché, pur essendo un appassionato di calcio, io sono strafelice che non si sia giocato domenica scorsa. Mi sono goduto ancora di più i mondiali di atletica e sport cosiddetti di secondo livello, ma secondo me assolutamente sono di primissimo livello, quindi non sarebbe male se si tornasse ai vecchi modelli, che magari il campionato incominciasse, se non ai primi, anche a metà settembre. Ecco, sarebbe un bello spazio da dedicare agli altri sport che lo meritano. Grazie. A lei Mario, cosa ne pensi? Ma penso che ci sia l'opportunità per tutti noi tifosi di vari sport di avere occasione di vederli. Certo. In realtà vorremmo che fossero presenti anche in questi spazi trasversali, vorremmo che fossero in prima pagina. Vorremmo che riempisse il nostro tempo libero. Però per la verità, se tu sei tifoso di pallavolo o di atletica o di ginnastica ritmica, se vai su internet trovi tutto il materiale necessario, più di quanto non sia mai accaduto nel passato, quindi c'è un passaggio in avanti nell'accessibilità alle informazioni. Dopodiché, siccome siamo ancora un po' vittime del sistema in cui sembra che ciò che passa in televisione o ciò che pubblicano i giornali sia ciò che ha importanza, rilevanza, vorremmo che la Gazzetta o Mediaset o Sky o la Rai dedicassero nei telegiornali i momenti importanti a sport minori. Questa è una scelta editoriale sulla quale non è corretto entrare più di tanto. Potremmo dire che in alcuni casi non esiste una graduatoria di importanza, certo, ma questo è un discorso un po' più complicato. Beh, tanto avremo tempo di farlo, no? Assolutamente. Grazie Andrea, alla prossima. Grazie a voi, è stato un grande ritorno. Grazie ad Andrea Zorzi, a Giorgio De Luca in redazione insieme a Cristiano Bartelloni, a Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7 per parlare di sport.